Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori, questa sera parliamo di due libri, uno molto diverso dall'altro. Il primo libro, anzi sono due volumi di 1600 pagine, 100 anni di filosofia da Nietzsche ai nostri giorni. Il secondo volume sono solo 65 pagine, Il buono scuola per una buona scuola. Autore di entrambi è Dario Antisari. Buonasera Antisari. Dario Antisari è uno dei maggiori filosofi italiani, ha insegnato alla LUISS, ha scritto molti libri, soprattutto sul fronte del liberalismo, sul fronte della scuola austriaca, degli approfondimenti attorno ai esponenti della filosofia contemporanea come Popper, e ha scritto insieme a Giovanni Reale, il compianto Giovanni Reale, scomparso lo scorso anno, che è stato uno dei massimi studiosi del pensiero antico, soprattutto su Platone ed Aristotele, 100 anni di filosofia da Nietzsche ai nostri giorni. Ecco, ma Dario Antisari, perché possiamo parlare di un libro che parla di 100 anni di filosofia in una rubrica dedicata all'economia? Che ci azzecca la filosofia con l'economia? Però, vedi, direttore, ci azzecca perché, diciamo così, se noi vogliamo comprendere la storia del pensiero occidentale, come anche questi ultimi 100 anni, dobbiamo veramente porre l'attenzione sull'intreccio inestricabile che c'è tra le teorie scientifiche e le teorie filosofiche. Esistono idee filosofiche che fanno avanzare o ostacolano lo sviluppo della scienza, esistono teorie scientifiche che entrano appunto in collisione o a supportare appunto alcune teorie filosofiche. Io basti pensare al significato filosofico delle geometrie non euclidee, alla teoria della relatività, ovvero a quanto è mutata l'immagine dell'uomo in base alla psicanalisi, alla teoria della forma, alla psicologia della forma, o anche e soprattutto alla teoria evolutiva. Quindi esistono teorie filosofiche intrecciate con le teorie scientifiche, e quindi questa è la ragione per cui Reale e io abbiamo messo appunto in questi 100 anni di filosofia gli sviluppi della scienza rilevanti per la filosofia. Ecco, non a caso tra i tanti nomi citati, tra i tanti filosofi di cui voi passate in rassegna appunto le idee, c'è anche Max Weber, che diceva che la scienza è una sola, non si può concepire una scienza a prescindere da tutte le altre discipline, e non si può concepire una scienza che non metta in dubbio appunto tutte le teorie precedenti, e quindi con una teoria della fallibilità e della necessaria continua ricerca, che è un po' anche la guida che ha portato la sua esperienza nell'ambito della ricerca filosofica, Dario Antisari. Esattamente, perché diceva appunto Weber, da lei citato, diceva Weber che si rimunera male un maestro se si rimane sempre allievi, e quindi un bravo maestro è colui che crea allievi che lo superano, quindi questa è l'idea di fallibilità. E per quanto riguarda lei ha citato Weber, ma per quanto riguarda i teorici dell'economia, basti pensare che abbiamo messo nel libro appunto la scuola austriaca di economia, la scuola di Friburgo, gli anarcocapitalisti, Keynes prima, anarcocapitalisti, e poi appunto fino ad arrivare a Sen, e alla fine del libro abbiamo messo tre scontri, quello tra Croce ed Einaudi sul liberismo e liberalismo, quello tra Sturzo e La Pira sui limiti dello Stato, e poi quello tra Bobbio e Togliatti appunto su libertà socialista e libertà appunto dei liberali. Quindi questo per dimostrare appunto che le idee economiche entrano appunto come fattore importante nelle condizioni dello Stato. Basti pensare a quello che è uno Stato totalitario, laddove l'economia di mercato è cancellata, viene appunto soppressa la proprietà privata. Quindi ogni Stato totalitario, pensiamo ai nazisti, pensiamo appunto all'Unione Sovietica, la prima cosa che ha fatto è eliminato la libertà economica. Ora, l'altra condizione dello Stato, lo Stato liberale, si fonda sulla proprietà privata dei mezzi di produzione. Diceva appunto Hayek, chi possiede tutti i mezzi stabilisce tutti i fini. Ecco come l'economia entra in quelle condizioni filosofiche che sono le teorie dello Stato. Ecco, c'è un capitolo dedicato anche ovviamente all'economia sociale di mercato, sì, che è stata uno dei filoni di pensiero, forse un'economia sociale di mercato che cerca di prendere le cose buone dello statalismo e le cose buone anche di una concezione liberale tout court. C'è comunque necessità di un compromesso, un ruolo dello Stato deve esserci, un ruolo della persona, della sua libertà deve essere comunque difeso, Dario Antisari. Sì, perché l'economia sociale di mercato è questi economisti, cioè Fondiz, Hoyken, Lampe, vollero costruire uno Stato fortissimo a difesa della libertà. E guardi che quando morì uno dei rappresentanti più importanti della scuola di Friburgo, cioè Wilhelm Röpke, Erhard, che era cancelliere della Repubblica Federale di Germania, ecco, tenne il discorso funebre e disse: tutto quello che io ho fatto per la rinascita della Germania lo debbo ai consigli e alle proposte di questo cristiano liberale. Ecco, questa credo che sia una cosa molto molto importante. Indubbiamente, come dice lei, la libertà appunto economica genera il più ampio benessere, e quindi questo Stato, dove c'è il più ampio benessere, può essere indubbiamente solidale. E questa è anche la posizione di Hayek, il quale in Legge di Relazione alla Libertà c'è tutto un capitolo a proposito della solidarietà, perché lui dice che la grande società, cioè la società, lo Stato di diritto, che è una società che genera benessere, deve essere solidale, perché evidentemente la libertà viene prima dell'uguaglianza, perché dove non c'è libertà non ci può essere nemmeno uguaglianza. Tuttavia le disuguaglianze, spesso quelle immotivate, sono un pericolo contro la democrazia, contro la società aperta. Ecco perché libertà economica e solidarietà, ecco, non sono cose che vanno da una parte da una parte e l'altra dall'altra, sono cose appunto unite insieme. Questo ce lo insegna Hayek e ce lo insegna la scuola di Friburgo. Ecco, in questa prospettiva, parlando di scuola, non della scuola di Friburgo ma della scuola italiana, possiamo accennare all'altro libretto, chiamiamolo così. Sì. Sono solo 60 pagine, è molto veloce, raccoglie però molto chiaramente le sue idee sul buono scuola per una buona scuola, edito da Rubettino. Ecco, una parità tra scuola privata e scuola pubblica, tra le possibilità delle famiglie di accedere a entrambe le strutture, lei vede come un elemento essenziale per la crescita sociale, per il dibattito, per la crescita soprattutto dei giovani. Perché il buono scuola per una buona scuola, Dario Antiseri? Per questa semplice ragione, come ci hanno insegnato questi grandi liberali, la competizione è la più alta forma di collaborazione. Questo vale per la scienza, per la democrazia e per l'economia. La scienza va avanti perché c'è questa disputa appunto tra idee, severa tra idee. Ugualmente la società aperta o Stato democratico è appunto un confronto tra posizioni, tra partiti per la soluzione dei problemi, e l'economia di mercato è appunto è un'economia dove c'è la scelta, si propone la scelta appunto tra soluzioni diverse per merci e per servizi. Bene. Noi abbiamo soltanto in Italia, diversamente da altri stati d'Europa come la Germania, l'Inghilterra, la Spagna, la Francia, abbiamo sostanzialmente un monopolio statale nella gestione della scuola. Ora, questa è una cosa indubbiamente deleteria, e questo perché? Perché appunto toglie questa posizione, toglie ogni briciolo di competizione. E allora il buono scuola, teorizzato prima da Friedman e poi diciamo così rielaborato da Hayek, questo il buono scuola è una buona soluzione per risolvere i problemi del nostro sistema formativo, nel senso che scuola statale e scuola non statale, ecco, finché non c'è una parità economica tra queste due posizioni, tra questi due indirizzi educativi, ecco, finché non c'è appunto competizione, non c'è miglioramento. Se invece mettiamo il buono scuola, cioè che le scuole statali hanno la stessa possibilità economica delle scuole statali, noi incrementiamo la competizione e quindi riusciamo a migliorare le scuole di Stato e le scuole non statali. Voglio dire che la scuola di Stato è un bene prezioso che va salvato, ma va salvato dallo statalismo. Per questo, senza parità economica, la parità giuridica tra scuole statali e scuole non statali è un inganno, ecco, che comporta conseguenze veramente nefaste. Ecco, ma c'è chi dice: beh, se uno vuole essere libero di scegliere, beh, se la paghi la scuola privata, in fondo, se una famiglia vuole mandare un figlio alla scuola privata, è giusto che se la paghi. Come risponde a questa obiezione? Io rispondo semplicemente questo, con questa controobiezione, cioè uno Stato dove dei cittadini devono pagare per comprarsi un pezzo di libertà non è uno Stato di diritto. E quindi lo Stato di diritto deve prevedere appunto la libertà per tutti, la libertà per tutti anche di accedere alla scuola. Ecco, però c'è un'altra obiezione di fronte a questo, a questi giudizi appunto, ma allora dovremmo fare delle scuole anche per i musulmani, dovremmo fare delle scuole anche per gli atei. Questa è un'obiezione. Dunque guardi, io credo che l'Italia sarebbe più libera se noi aboliamo le scuole dei Salesiani o le scuole degli ordini degli Scolopi o le scuole dei Somaschi, o se aboliamo per esempio il liceo israelitico di Roma o di Milano. Io dico una cosa, che in Belgio, come in Germania, nei Paesi Bassi, ci sono scuole anche ad orientamento musulmano. Io dico questo, i musulmani sono presenti in Italia in migliaia e migliaia e migliaia. Se loro volessero delle scuole a orientamento confessionale, cioè con la loro letteratura, la loro poesia, ma dentro allo Stato, dentro ai ideali della Costituzione nostra, e quindi devono essere scuole dove si parla in italiano, dove ci sono gli ispettori, questo potrebbe essere una cosa buona, perché altrimenti se non vogliamo questo, se non progettiamo questo, anche a motivo di un'integrazione seria, ecco, noi avremo le madrasse, cioè avremo le scuole musulmane, che dove magari appunto si predica la violenza, ecco, scuole musulmane dentro ai garage delle città. E senza poterle appunto comprendere in un sistema scolastico che appunto deve vedere varie diverse possibilità, ma all'interno, come diceva, di una regola costituzionale che tutti devono osservare. Certo. Grazie Dario Attiseri di essere stato con noi. Abbiamo parlato di due libri, come dicevo, uno molto diverso dall'altro. Il primo libro, anzi i due volumi editi dalla scuola, sono stati scritti da Dario Attiseri insieme a Giovanni Reale, sono 100 anni di filosofia da Nietzsche ai nostri giorni. Sono 1600 pagine per 65 euro. Il secondo libro è di tutt'altra portata, molto più piccolo, immediato e rapido, sono solo 60 pagine per 7 euro, edito da Rubettino e si intitola Il buono scuola per una buona scuola. Grazie a Dario Attiseri di essere stato con noi, ringrazio anche Paolo Corleone in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato, commentato sulle pagine del web www.radio24.it. Grazie e l'appuntamento con Economia in Pagine è per sabato prossimo.